e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, buongiorno, bentornati. Oggi è giovedì, giovedì gnocchi. Sì. No, giovedì era trippa. Anche, perché no? Gnocchi, ti darebbero fastidio oggi. Comunque, c'è la nostra scuola di risparmio. Brava. Intanto che noi ci prepariamo, Deborah, tu dacci qualche anticipazione. Che cosa ci aspetta? Guarda per oggi? Qua, ho il sole 24 ore davanti agli occhi. La nostra Bibbia. Adesso. No, noi non ci raccogliamo in preghiera davanti al giornale, però lo leggiamo attentamente. Allora, ci aspetta un appuntamento ricco per Investire Informati, perché commenteremo le ultime notizie economiche, sempre con l'attenzione particolare al rapporto fra gli italiani e il mondo del risparmio. Scopriremo però anche la storia di quello che potremmo definire un fondo di investimento Highlander, cara mia, quindi ha puntato tutto sulla longevità. Come magnifico, vedi, la finanza sempre più piace. Intrecciata con il cuore. Senti, ci sarà anche il domandone, dacci altro subito che un aiuto, perché abbiamo un sacco di libri da sì. regalare e vogliamo distribuirli, come si dice, a piene mani. Esatto, questo 2017 punteremo tutto sulla cultura degli italiani, quella finanziaria oltre che quella del benessere fisico, perché il grande tema del momento, l'educazione finanziaria, tutto quello che si fa in Italia per migliorarla. L'aiutino è che di sicuro ci muoveremo oltre oceano, manco a dirlo, guardando l'economia degli Stati Uniti, dove si è appena insediato Donald Trump, che con la sua politica protezionistica è convinto di riuscire a rilanciare il lavoro e l'occupazione. Vedremo come stanno rispondendo i mercati, il domandone sarà su questo tema. Allora abbiamo tutto e noi proprio di lavoro parleremo, lavoro un tema di denari che affronteremo invece dal punto di vista del cuore, perché il lavoro, lo sappiamo, è una straordinaria risorsa, ma può trasformarsi anche in una insidiosa minaccia. Ci sono ormai le prove, uno studio pubblicato dal Center for Disease Control statunitense, analizzando i dati di 66.000 lavoratori di 22 categorie professionali diverse, ha evidenziato come alcuni lavori siano più dannosi di altri per la salute del cuore. Allora, volete sapere quali sono? Restate, chiamateci, seguiteci e nel frattempo diteci che lavoro fate e che tipo di vita conducete. Provate un po' a pensare quanto e in che modo il vostro lavoro condiziona nel bene o nel male il vostro stile di vita. Possiamo provare a ragionare su 4 indicatori: stress, dieta, attività fisica e relazioni. Allora provate anche solo mentalmente a mettere un segno più o meno accanto a queste voci, avete un po' un quadro della situazione. Intanto andiamo alla classifica dei lavori nemici del cuore. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Salvatore Novo, direttore della divisione di cardiologia all'ospedale universitario Giaccone di Palermo, dove si è appena concluso un importante congresso organizzato dal Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute, Scuola di Medicina dell'Università di Palermo, è promosso dalla Fondazione Internazionale Menarini, in un congresso in cui tra i tanti temi è stato proprio affrontato la relazione tra lavoro e salute del cuore. Buongiorno professore. Buongiorno ai radioascoltatori. Professore, saluta anche noi, me e Deborah. Sì, ovviamente. Ecco. Allora, gli americani ci dicono che ci sono lavori più dannosi di altri per il cuore. Di che lavori stiamo parlando? Partiamo dalle caratteristiche di questi lavori. In genere si tratta di lavori in cui il lavoratore fa poca attività fisica, sostanzialmente si muove poco, pochissimo. Potrebbero essere per esempio i conducenti dei grossi automezzi, potrebbero essere i coloro i quali lavorano nei call center, e quindi questi soggetti fanno tutto il loro lavoro durante la giornata seduti a un tavolino, seduti alla guida di un automezzo, per cui si muovono pochissimo. Quindi muovendosi poco probabilmente accumulano peso, quindi in qualche misura diventano obesi, in una percentuale di casi sicuramente più elevata che in altri lavori in cui c'è più attività certo. fisica. Non a caso quindi lo studio americano mette proprio in cima alla classifica dei lavoratori più a rischio i camionisti, sedentari per necessità, spesso sovrappeso a causa di una dieta poco equilibrata e varia, immagino anche un po' disordinata, il tutto direi condito con una buona dose di stress che aggiunge un carico da 90. Assolutamente. Ecco, il lavoro dei camionisti, ne abbiamo parlato, professor Novo, in diverse puntate a Cuore Denari, è un lavoro certamente molto duro, abbiamo anche coinvolto i diretti interessati a raccontarci un po' le loro fatiche, ma anche le loro strategie per mantenersi in forma. Professor Novo, prenda a cuore il cuore dei camionisti che ci stanno ascoltando, ma anche di tutti coloro che svolgono un lavoro che ha delle caratteristiche molto simili. Penso ai taxisti, alle agenti di commercio, a tutte le persone che svolgono lavori sedentari e ripetitivi. Ci dia due indicazioni. Penso che queste persone dovrebbero perlomeno per il tempo libero avere dedicare un po' di tempo all'attività fisica e poi anche nella loro attività quotidiana, seppure fanno questo lavoro stressante, cercare per esempio di avere un'alimentazione che sia per quanto possibile un po' più varia, un po' diversa da quello che normalmente si mangia nei posti in cui ci si ferma in autostrada o nei fast food, ma cercare anche di mangiare delle cose che nella dieta facciano meno male dei soliti panini col prosciutto e il formaggio, sì. Mangiare anche dei panini che contengono della verdura, mangiare un po' di frutta, farsi una piccola passeggiata quando si fermano un arancino, professor Novo, o un'arancina. Arancino, perché a Palermo si dice arancina, a Catania si dice arancino, a Roma si dice anche arancino, ma insomma poco importa, sostanzialmente a me come me lo date lo mangio. O l'arancina comunque è fatta dal riso, che è un carboidrato, e quindi sicuramente, diciamo, se mangiato non in eccesso non fa male. Fantastico. Allora, quindi controllo del peso, controlliamo il peso, attività fisica nel tempo libero, possibilmente astenersi dal fumare sigarette, perché spesso il lavoro del camionista, comunque di chi fa un lavoro noioso, si accompagna anche al fumo di sigarette, quindi astenersi dal fumo di sigarette, e poi controllarsi di tanto in tanto quelli che sono i fattori di rischio principali, quindi in particolar modo farsi misurare dal medico curante, anche misurarsela a casa la pressione arteriosa, fare una volta tanto un esame dell'assetto lipidico per vedere quali sono i valori del colesterolo, anche la glicemia, perché ci sono tante forme, diciamo, di diabete che non è... Ne abbiamo proprio parlato ieri, molte persone... manifestato, ma comunque si può scoprire, per esempio, certo, vedendo che c'è una glicemia a digiuno che va al di là del limite di 100, che è il livello normale, allora in quel caso si può approfondire con una curva da carico, comunque con una glicemia frazionata dopo il pasto, si scopre che c'è una situazione di iperinsulinismo, di ridotta tolleranza ai carboidrati, che è l'anticamera di quello che poi sarà successivamente un diabete di tipo secondo, che è fortemente anche questo correlato alle malattie cardiovascolari. Allora, quindi controllo del peso corporeo, colesterolo e pressione, e aggiungiamo anche un po' meno di stress, una migliore gestione dello stress, certo, questo per ridurre il rischio di patologie cardiovascolari. Smettete di fumare, se non ce la fate lasciatevi accompagnare dai consigli del dottor Boffi, e per il resto ci sono sempre le puntate di Cuore Denari. Ieri abbiamo parlato di glicemia, oggi continueremo a parlare di salute del cuore, quindi lavoreremo sulla gestione dello stress, parleremo tra poco anche di colesterolo e dei valori della pressione. Grazie professor Novo. Grazie a voi, buona giornata. E a proposito di stress, è stata pubblicata su Lancet, una che è una prestigiosa rivista scientifica, uno studio che riporta risultati davvero impressionanti sulle conseguenze dello stress sulla nostra salute. I risultati però ci dicono anche quali sono le cause del collegamento tra stress e malattie cardiovascolari. Dato che siamo tutti, bene o male, un po' stressati, sì, e un cuore ce l'abbiamo, perché se siamo qua abbiamo un cuore, almeno esatto, un cuore che batte. Accendiamo allora una lucina. Brava, commentiamo subito questa ricerca con Maria Giovanna Luini, medico e comunicatore scientifico e scrittrice, che è in linea con noi. Ciao Giovanna. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. La ricerca è interessantissima perché... niente meno che i ricercatori di Boston pubblicano su The Lancet, quindi il giornale più importante in assoluto in medicina, che infarto e ictus effettivamente possono essere provocati dallo stress. Questa è una certificazione importante perché si tratta della scienza che convalida ciò che noi sospettavamo. Altra cosa più importante ancora è che sono le emozioni a determinare questo, cioè l'amigdala, il nostro centro delle emozioni nel cervello, è strettamente collegata agli episodi di infarto e ictus. E allora, verissimo che lo stile di vita può ridurre lo stress, ma ancora più importante è sapere gestire le emozioni. Questo studio dimostra che quando viviamo emozioni che rimuoviamo, che cerchiamo di nascondere, che cerchiamo di comprimere dentro di noi, abbiamo un rischio elevato di infarto e di ictus. Questo studio è importante per questo, perché al di là delle indicazioni che voi date ogni giorno sullo stile di vita, ne date anche tante su come gestire le emozioni, che non vanno cancellate o compresse, perché l'amigdala nel cervello se le ricorda e manda segnali al corpo che possono provocare infarto e ictus. Allora, 800 24 00 24, ringraziamo la dottoressa Giovanna Luini. Ciao Giovanna, grazie per essere stata Ciao, con grazie. Noi. Grazie Giovanna. Che ci ha commentato questo studio, che racconta quello che in cuor nostro ecco. sapevamo un po'. Perché... Documentiamoci sull'amigdala, che mi sembra... Ti piace? Sì, sì. Amigdala, rendiamoci l'amica. Il nostro amico Mirko Labella ce ne ha parlato spesso, te lo ricordi? Anzi, lo salutiamo anche. Allora, noi continueremo a darvi consigli, indicazioni, ma raccontateci anche le vostre strategie per così proteggere il vostro cuore. Parleremo tra poco di colesterolo, parleremo anche di naturalmente di pressione con i nostri esperti. Intanto, se volete mettervi in contatto con noi e darci i vostri valori, noi siamo qui. Cuore e denari. Il mio tasso di colesterolo è salito a livelli alti. Esatto, e per questo motivo ho chiesto di fare anche un esame dei lipidi. No, il guaio è che sono goloso di ogni tipo di insaccati, quindi mi sono fatto un panino chilometrico e ci ho anche messo, insomma, l'ho rimpinzato di patatine fritte, così quando lo mangio scroccia tutto. Ah, tanto per assaggiare. Sì, un assaggino, non posso resistere, ne vado matto. Eccoci qua, di solito se ne parla male, ma la fama di nemico pericoloso non è del tutto meritata, insomma c'è del buono anche nel colesterolo, di cui parliamo tra poco insieme al dottor Attilio Speciani, perché vogliamo sapere tutto su questo grasso considerato, anche se impropriamente lo definiamo grasso, considerato uno dei nemici più acerrimi della salute del nostro cuore. Dottor Speciani, buongiorno. Buongiorno a voi. 800 24 0024, un numero per dare anche i numeri del vostro colesterolo e per imparare qualcosa di utile e tenerlo quindi sotto controllo. Dottor Speciani, tra i tanti libri lei ha scritto proprio un libro che cade a fagiolo oggi per noi, Colesterolo, amico o nemico? Bene, bello. Partiamo subito da qui, dal titolo, amico o nemico? Tutte e due, nel senso che in realtà adesso ragioniamo insieme. Con il colesterolo noi riusciamo a fare gli ormoni. C'è qualcuno che rinuncerebbe ad avere la sua vitalità sessuale, la sua storia, la sua struttura, no, eccetera, dicendo eliminiamo il colesterolo così riduciamo anche questo. No, ovviamente. Per cui questo solo per dare un'indicazione di quanto il colesterolo non sia solo un elemento che va a danno. Il peso secco del nostro cervello è in gran parte fatto da colesterolo, quindi noi pensiamo anche con cellule che sono fatte di colesterolo, che deve essere buono, funzionante bene e magari non derivante dalle patatine fritte di cui certo. il passaggio che ci abbiamo appena sentito. E giusto mi collego a quello che diceva prima l'amica Giovanna Luini parlando dell'amigdala e delle emozioni. Non è casuale, l'amigdala poi in realtà significa mandorla, perché è la forma di una mandorla. Eccola che tocca, lì, me la volevo mi ha bruciato. Me la volevo così. Te la volevi buttare, giocare tu? Sì, perché volevo dottor Noce, dottor Mandorla e esatto, cose. Vabbè, me l'ha bruciata, pazienza. È un grande maestro. Dottor Speciani, a proposito, amigdala deriva proprio, significa? Scusi, mandorla, l'abbiamo interrotta. Mandorla, e quindi? E quindi questo ci richiama ad esempio al fatto che davvero anche il colesterolo è una delle modalità di risposta ad esempio alle emozioni, come diceva prima Giovanna Luini, nel senso che di fronte a delle emozioni negative noi dobbiamo produrci una risposta ad esempio di innalzamento del cortisolo, cioè degli ormoni con cui noi ci difendiamo, che portano poi ad un aumento del colesterolo come evento stressante. Cioè la risposta ad esempio allo stress è quella di produrre colesterolo. Quindi in questo lo stress mette lo zampino anche qui. Allora, abbiamo già acquisito un'informazione in più sul colesterolo, ma andiamo a sentire quante ne sappiamo con la nostra Vox Populi e poi la commentiamo insieme. È il grasso in eccesso dovuto alla cattiva alimentazione? Sì, è il grasso nel sangue. Ho sempre sotto controllo ed è un po' alto il mio, quindi elimino i formaggi, elimino i grassi. Tutte quelle cose lì che so che ormai è il mio disturbo, è centrato. Una sostanza che si trova nel sangue che più o meno ostacola o favorisce il passaggio del sangue, lo rende più o meno fluido, no? Sì, è un problema medico che riguarda i zuccheri, insomma, eccetera. L'ultima volta che l'ho controllato è 2 anni fa ed erano a posto. Adesso non lo so, da 2 anni. E a proposito, voi lo controllate ogni tanto, quando e che valori avete? 800 24 0024, dottor Speciani, un commento alla nostra Vox Populi. La Vox Pop è interessante perché alcuni ne parlano come di grasso, come l'unico grasso responsabile. Sì. Invece c'è tutto un insieme di lipidi nel sangue che coordinano questa cosa. In realtà un signore ha detto: perché quando mangio molti zuccheri? Questo ha toccato un tasto nuovo, devo dire, che sta diventando base, si sta scoprendo che non sono necessariamente i grassi che si mangiano, tant'è che ad esempio anche il famigerato tuorlo d'uovo oggi è stato rivalutato dalla scienza come fonte di sostanze benefiche, e un po' di colesterolo da mangiare fa bene all'organismo perché agisce limitandone poi la produzione di nuovo. Quello che si è scoperto è che non è che si mangi il colesterolo, ma che lo si produca. E questa cosa ha cambiato radicalmente il modo in cui si pensa al colesterolo come nemico, perché non è più un problema di introduco molto colesterolo e quindi starò male, ma introduco una dieta sbagliata, scorretta, antimediterranea, priva di cereali integrali, eccetera, con molti zuccheri raffinati, in certo modo non faccio attività fisica, e allora produco colesterolo. Vedi che cambia quindi radicalmente. Quindi è proprio una visione assolutamente diversa. Gabriella ci scrive: ho il colesterolo alto nonostante mangi molta verdura, carne bianca, pesce, dipenderà dalla ricotta, mozzarella light, yogurt di cui non faccio a meno quasi tutti i giorni. Allora, questa è la domanda di Gabriella, che ci permette di fare due considerazioni. Ci dice: ho il colesterolo alto, ma dottor Speciani, il colesterolo si fa in tre. Ecco, esatto. Non per piacerci, ma per guidarci, per aiutarci. E quindi è importante considerare non solo il valore del colesterolo totale, ma anche il valore del colesterolo buono e del colesterolo cattivo. Questa è la prima su cui torneremo. E Gabriella ci dice: dipenderà da quello che mangio. Lei ha appena sottolineato che il colesterolo introdotto con i cibi corrisponde a meno di un quarto del colesterolo totale. È più esatto. Quello che noi produciamo di quello che introduciamo. Questo non significa che bisogna mangiare male, bisogna mangiare bene proprio per mettere in grado il nostro organismo di fare le cose per bene. Allora, dalla lettera, dal messaggio di Gabriella, dottor Speciani, indicazioni per i nostri ascoltatori. Un'indicazione è sempre quella di valutare con il proprio medico quanto colesterolo buono ci sia, anche perché io vedo sempre più spesso donne attive, sane, così dal messaggio di questa Gabriella me la immagino sicuramente donna giovane e che si sta ponendo delle domande, e spesso vedo persone con colesteroli anche elevati, ma con un quantitativo di colesterolo buono, perché fanno attività fisica, perché usano l'olio d'oliva, perché usano verdure, eccetera, e che sono, come dire, tamponanti. Il rapporto tra il colesterolo totale e il colesterolo buono è quello che denuncia fondamentalmente effettivamente se c'è un rischio. Qual è il rischio? Che si crei un'infiammazione a livello delle arterie, delle arteriole, dei vasi, dove si depositano poi le placche, che sono quelle negative. Però se c'è tantissimo colesterolo buono, questo tende a rimuovere e a togliere via il livello di colesterolo che si deposita e che crea un problema. Paradossalmente persone col colesterolo basso, ma con un bassissimo livello di colesterolo buono, perché non camminano, non fanno attività fisica, non mangiano cose giuste, in realtà sono molto più a rischio delle persone col colesterolo più alto e con dei rapporti buoni di colesterolo HDL. Allora, abbiamo Roberto che ci chiama da Milano. Buongiorno Roberto. Buongiorno. Eccola qua. Come sta? Bene. Allora, vada ora... che io ho un minuto, 50, 30 secondi. Io brevemente, siccome faccio l'autista, quindi la categoria era quella, io mi alzo molto presto al mattino, faccio colazione tipo alle 3 del mattino, poi in continuazione ho bisogno di mangiare verso le 9 di nuovo. E poi verso le 11, mezzogiorno mangio sempre tutti i giorni un buon fermo, un paio di finocchi. Sì. Questa è la mia intenzione. Poi di sera faccio cena. Vabbè. E la che cosa vuole chiedere al dottor Speciani? No, volevo chiedere se questo tipo di alimentazione, questo tipo di comportamento durante il giorno va bene, anche perché voglio dire è un lavoro veramente stressante. Il lavoro è stressante. Dottor Speciani, allora ci sentiamo a un attimo per noi dopo il GR. Scavalliamo il GR. Facciamo GR? Dai, che sì. Dati? Dai, va bene? Dai. Tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su RDS.it. Allora, siamo ritornati insieme, abbiamo tenuto in ostaggio il dottor Attilio Speciani, allergologo, immunologo clinico a Milano e autore di un ma libro. Ma non ha sofferto molto, non lo abbiamo torturato tanto. Colesterolo amico nemico, perché vogliamo carpire la ricetta per aumentare il colesterolo buono e ridurre quello cattivo. In una parola, vogliamo aiutare il nostro cuore a mantenersi sano, giovane e sano. Dottor Speciani, noi siamo pronti con i nostri appunti. Eccomi, non sono morto nel frattempo, quindi ma ci sono, senta, ma sa quanti desidererebbero essere tenuti in ostaggio dalle amiche di Cuore Denari? Io sono felicissimo. Ce ne abbiamo anche uno qui in studio. Mia moglie è molto gelosa di questo, quindi va bene. Allora, pensiamo al nostro colesterolo. Cosa faccio per aumentare quello buono e ridurre quello cattivo? Perché il problema poi è lì. Allora, ci sono proprio tre elementi che sono quelli di un corretto bilanciamento dei cibi all'interno dell'assunzione alimentare, nel senso che quando io mangio dei pasti è solo la dominanza di tipo carboidratica, come fanno molte persone la prima colazione, cui mangiano solo la brioche piuttosto che il biscotto, piuttosto che qualcosa di questo tipo, in realtà creo un'alterazione. Quindi bisogna bilanciare sempre un po' di frutta e verdura, un po' di proteine e un po' di carboidrati, in maniera bilanciata come insegna l'Harvard Medical School, che su questo è parte. Poi noi abbiamo la nostra italianità meravigliosa, quindi ci sono delle cose bellissime, l'olio d'oliva ha un'azione che è al pari di quella dell'attività fisica, per cui olio di oliva, aglio, frutta e verdura fresca, cereali integrali, ne abbiamo di buonissimi con più o meno glutine, fatti nel modo più importante del mondo, abbiamo del riso che finalmente si sta trovando integrale, buono, che quindi ha delle capacità di portarsi via i grassi cattivi, di impedire, abbiamo delle scelte possibili, anche mangiando, ad esempio quando siamo in giro, come il camionista Roberto che prima ci ha chiamato e ci ha detto io mi sveglio alle 3 del mattino, colazione leggera, nel senso che uno si prende un succo di frutta, però si porta dietro quella che a Milano chiamiamo la schiscetta, perché a volte ti fermi nei bar se sei in giro e trovi poche cose, quindi bisogna portarsi dietro del pane integrale, delle gallette integrali, qualcosa che ti consenta di difendere la tua vita e la tua esistenza, almeno io lo faccio, no? Allora, noi facciamo così, allora, dottor Speciani, oltre a queste indicazioni, mandateci una foto di quello che mangiate, iniziamo questa rubrica, una sorta di vassoi da incubo, oppure fotografate la vostra prima colazione, quello che vi portate in mensa, eccetera, e chiediamo al dottor Speciani di seguirci un po' e di dare magari delle indicazioni su cosa togliere, aggiungere o sostituire. Che dice, dottore? Dai, mi travesto da chef, che c'ho un cappello, dai, e faccio... Dai, vassoi da incubo a Cuore Denari. Il suo meraviglioso libro sulle colazioni, peraltro. Per tirare giù il colesterolo cattivo e aumentare quello buono, ma non solo, proprio per riuscire a dare i messaggi giusti al nostro organismo e quindi farlo funzionare bene attraverso proprio l'alimentazione. Grazie, dottor Speciani. Grazie a voi, buona giornata. Le manderemo anche i nostri di vassoi, ma i nostri sono bellissimi. Mamma, io guarda, se potessi raccontare cosa non mi sono mangiata stamattina. Ecco, allora. Però dopo il colesterolo vogliamo dare una controllatina veloce veloce alla nostra pressione, quando anche abbiamo parlato di tre valori del colesterolo, anche la pressione però ne ha due di valori, ma controlliamoli, lo facciamo insieme al professor Claudio Borghi. Quando parliamo di pressione non possiamo non invitare lui, il direttore dell'unità operativa di medicina interna al Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna e presidente della Fondazione Società Italiana dell'Ipertensione. Professore, buongiorno. Buongiorno, è esattamente come quando io parlo di radio, non posso non parlare di voi. Bravo, che cosa? Bravo. Noi adoriamo gli uomini bugiardi, vero? Che esatto, c'è il naso che è arrivato fin qua. Professor Borghi, allora abbiamo detto che lo stress può far aumentare anche il colesterolo, ma può far aumentare anche la nostra pressione. Molte persone leggono queste notizie e dicono, beh, sono i valori della pressione sono un po' alti, ma sono stressato e non se ne curano più. È corretto o bisogna fare qualcosa? No, non è corretto, è vero, nel senso che l'aumento dello stress, qualsiasi situazione stressante, fa aumentare la pressione, che è una reazione perfettamente normale, perché noi nel momento in cui siamo stressati ci prepariamo alla lotta, per essere pronti alla lotta abbiamo bisogno di più sangue ai muscoli e questo fa aumentare la pressione, quindi è un rapporto che noi trasciniamo dalla nostra vita di parecchi milioni di anni fa, quindi è un fenomeno perfettamente normale. Non è normale che questo stress si ripeta in continuazione, perché noi siamo sottoposti a una stimolazione stressante cronica, perché questo ovviamente trascina con sé una serie di possibili conseguenze, una delle quali è un aumento della pressione, e se si ha una condizione di fondo di predisposizione per lo sviluppo di ipertensione è molto più semplice ovviamente che la pressione aumenti in maniera stabile. Professore, vogliamo dare i numeri? Dovremmo saperle, ma diamo i numeri della pressione. Quali sono? Ma i numeri della pressione sono sostanzialmente sempre gli stessi, diciamo, negli ultimi anni, confermati dall'epidemiologia: una pressione massima che dovrebbe essere stabilmente al di sotto di 140, una pressione minima che dovrebbe essere al di sotto di 90, con alcune deroghe in due popolazioni speciali: i pazienti anziani, nei quali si ritiene che la pressione si consideri ben controllata anche fra 140 e 150, e i pazienti diabetici un po' più a rischio, nei quali ci sono buoni risultati riducendo in maniera più efficace la pressione minima fra 90 e 85. Queste sono, diciamo, le cifre che dobbiamo tenere d'occhio in maniera assoluta. Professore, ma per ridurre la pressione conta più la dieta o l'attività fisica, o è necessario e sempre lavorare sui due fronti? Abbiamo aperto la nostra puntata con la classifica dei lavori che mettono più a rischio la salute del cuore. Abbiamo in cima alla classifica troviamo i camionisti, ma le ragioni di questo sono proprio un stile di vita particolarmente sedentario, un'alimentazione che è sregolata, spesso disordinata, e lo stress. Per ridurre la pressione devo lavorare su entrambi i fronti, o i risultati maggiori si ottengono con l'attività fisica o magari con la dieta? Perché magari in alcune condizioni non si può lavorare sui due fronti subito, magari ci si arriva a step. Allora vorrei dare un'indicazione per chi non può farle entrambe, magari iniziare con, oppure... Grazie. Sì, sì. Iniziare con quello che è più pratico rispetto al nostro stile di vita. È difficile dirlo perché ciascuno di noi ha un proprio stile di vita. Per qualcuno probabilmente è più semplice muoversi, perché magari può trasformare la propria sedentarietà in un'attività fisica semplicemente camminando senza prendere l'auto nel momento in cui svolge il proprio lavoro. Per altri può essere più semplice, non avendo questa opportunità, stare lontano dal cibo. Diciamo, entrambe le opzioni sono efficaci. Per entrambe le opzioni esistono evidenze sostanziali di una riduzione dei valori di pressione arteriosa. Combinate insieme funzionano sicuramente meglio. Ciò che noi suggeriamo è ovviamente una combinazione di questi due effetti. Alcune volte, in questi casi, la mezza porzione funziona, quindi fare un'attività fisica che non sia così intensa ma comunque rilevante, e ridurre la dieta in maniera non così drastica, se combinate in maniera efficace, possono ottenere un risultato. Fantastico. Allora torneremo naturalmente ad affrontare questo tema insieme al professor Borghi. Mi tolga solo una curiosità, che così rispondiamo a molte domande: il sale va tolto completamente per le persone che hanno un problema di pressione, quindi sono ipertesi? Così rispondiamo ad alcuni dei nostri ascoltatori che mangiano completamente sciapo per paura di far alzare la pressione. È assolutamente corretto? No, il sale va ridotto. Le linee guida e le norme di buonsenso soprattutto dicono una dieta iposodica, non asodica. Iposodica vuol dire che dovremmo mangiare una quantità di 5-6 grammi di cloruro di sodio al giorno. Purtroppo in media in Italia ne mangiamo circa il doppio, quindi ciò di cui abbiamo bisogno è fondamentalmente un sostanziale esame di coscienza sul contenuto di sale dei cibi che noi ingurgitiamo, perché quello che aggiungiamo in generale lo possiamo eliminare con facilità, perché la boccetta del sale la troviamo davanti, ma quello che è già contenuto nei cibi è più difficile da identificare. Quindi prendere l'abitudine di rileggere un pochino le etichette dei cibi, e in questo mi riaggancio a quello splendido progetto che voi avete proposto in precedenza, di questo sondaggio, questo outing sulle caratteristiche della dieta dei pazienti, perché da qui si può anche risalire a quale sia la quota di sale che si può togliere. Grazie professor Borghi, a prestissimo. Ma non gli posso fare una domanda? Va bene. Posso, professor Borghi? Per Bacco, se può. Mi sono intrufolata lì, perché insomma sul tema della pressione l'altra sera ho fatto la visita medica per la palestra. Era le 7:30 di sera, sto molto bene. 70-110. Lo so che è una domanda bruciapelo, che non vuol dire niente praticamente. Io posso stringere la mano. Ecco, va bene, anche in tarda serata... Sono dei valori che vanno bene. 110, noi non abbiamo, c'è una curva circadiana della pressione, ossia la pressione non è sempre uguale nell'arco di tutta la giornata, ma quando lei si colloca stabilmente, diciamo, al di sotto di quello che noi riteniamo la pressione normale, che è 120-70, e lei c'è ampiamente, vuol dire che ha un margine straordinario di sicurezza dai suoi valori di pressione. Anche quindi, perché voglio dire che Deborah... Okay. ogni giorno sente e partecipa appunto, a cuore denari. Esatto. Quindi questa è la prova. Ho l'osmosi, che sto bene per osmosi. Che anche solo ascoltare certo. Vuol dire no, poi convincersi e mettere in pratica. Professor grazie. Borghi, grazie, buona Sente, giornata. È una cosa sulla quale dovremo parlare una volta, perché probabilmente c'è anche questo aspetto. L'aspetto, diciamo, del condizionamento psicologico e l'induzione sulla base del condizionamento psicologico è estremamente importante, soprattutto per il rispetto dello stile di vita. Grazie, grazie. Buonissima giornata. Borghi. Noi adesso parliamo di risparmio. Parliamo di risparmio, però venire guarda. Una domanda intelligente sul risparmio. Me la faccio suggerire dal tuo ospite, così ti spiazzo, perché sai, i valori della pressione è facile. Io questo, il colesterolo. Esatto, lì, ma fare una domanda pertinente sul risparmio. Ma ce l'hai, ce l'hai. Però io volevo adesso... anche salutare questo nostro povero Mauro, perché dice io ho tutto quello che serve sui temi di cui avete parlato venga questa da mattina. Noi, venga a casa nostra. Manager, molto stressato, poco movimento, trading online, infarto nel 2013, da allora 4 angioplastiche, 8 stent. Mauro, qualche correttivo qua lo dobbiamo portare. Intanto viva un po' meno di passione per questi mercati finanziari, perché sono stressanti e oltretutto ci obbligano, soprattutto per chi fa trading online, a controllarli giorno e notte, quindi non dormire per niente, e sappiamo quanto il sonno sia prezioso. Riduca un po' le ore davanti a quei malefici terminali, prima cosa. Poco movimento, dice Nicoletta qua, che alzi un po' sul sederino da quella sedia e cominci a farne. Sì. Non è che ci voglia tanto per migliorare la qualità di vita. Cosa dici? Ma guarda quante ne sa questa Deborina. Allora, logica del risparmio, cultura finanziaria, situazione sui tassi di interesse, inflazione, obbligazioni, rendimenti, lungo termine. E abbiamo proprio poco fa sfornata da Eurispes un'indagine sulle condizioni delle famiglie italiane. Anche stamattina abbiamo davvero un piatto ricco per la nostra rubrica del giovedì. Investire informati. Buongiorno, ben ritrovato. Non è capitato nella consueta gabbia di matte. Edoardo Fontanarava, direttore sviluppo e gestione prodotti di Banca Mediolanum. Ben ritrovato, buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti quanti. Allora, io ho fatto un'estrema sintesi dei temi che ci piacerebbe affrontare questa mattina nella nostra ricca rubrica del giovedì, per cui se qualcuno di termini che abbiamo già utilizzato vi incuriosisce, intervenite pure all'800 24 0024. Allora, io partirei subito, dottor Fontanarava, su questa indagine di Eurispes, perché nel corso del giornale radio proprio la stavamo leggendo insieme nei primi flash che vengono diramati dalle agenzie. Apprendiamo che quasi la metà delle famiglie non riesce a far quadrare i conti per arrivare a fine mese. Solo una su quattro risparmia, questa è proprio la frase che ci ha colpito di più. Nicoletta, affrontare le spese mediche è un problema, certo, per il 25,6% di loro. Il 13,8% delle famiglie nel campione interpellato è tornato, delle persone del campione interpellato è tornato a vivere dai genitori chiedendo aiuto economico. Si sente povero un italiano su quattro. Solo il 12% afferma di non conoscere nessuno che si trovi in condizioni di indigenza. Le cause però sono la perdita del lavoro e la separazione. Questo un po', poi ci sono tantissimi altri aspetti affrontati, ma dottor Fontanarà, uno su quattro tra le famiglie interpellate non riesce a risparmiare, eppure continuiamo a dipingere il nostro paese come quello che in Europa ha il più alto, al più alto stock di risparmio privato. Come si concilia quella che è la realtà dei fatti e dei numeri con quello che è il percepito delle famiglie? Ma sicuramente vediamo da un periodo difficile da un punto di vista economico, da un punto di vista di investimenti, e quindi assolutamente comprensibile che da un punto di vista emotivo gli italiani reagiscano con queste dichiarazioni rispetto a quello che è lo scenario. Io proverei a interpretare quella che è l'indicazione di un italiano su quattro che riesce a risparmiare in un italiano su quattro sa come risparmiare. Noi vediamo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, un'enorme crescita delle giacenze sui conti correnti. E quindi probabilmente la difficoltà nell'identificare quella che può essere una soluzione di investimento porta a leggere una situazione sicuramente difficile, peggiore anche di quella che in realtà è nei fatti. Da altre ricerche, adesso mi viene in mente, leggevo il fatto che in una ricerca Ipsos si diceva il 32% degli italiani ritengono che non esista l'investimento ideale, e il risultato porta un po' a quello che è lo scenario di oggi, dove sostanzialmente più del 30% degli italiani tendono a tenere tutti i soldi o più del 50% dei loro risparmi in conto corrente. Conto corrente che ovviamente non è identificato come risparmio, ma è identificato dato come una non scelta parcheggio, in questa fase. Esattamente. Tra l'altro, lo racconto anche ai nostri ascoltatori, sempre a microfoni spenti, il dottor Fontanarava me lo raccontava lei poco fa, ma in realtà anche questa è una questione che mi raccontano molti altri operatori, appunto come il vostro, figure finanziarie, bancarie, appunto. È un momento questo sempre un po' tipico dell'anno in cui fare delle scelte di risparmio e di investimento è difficile. Forse quest'anno un po' più degli ultimi anni c'è questa sorta di congelamento delle decisioni, lo rilevate anche voi, perché secondo lei si verifica questo? E questo si traduce proprio anche nel famoso parcheggio del denaro sul conto corrente o si manifesta in altra maniera? Ma già l'inizio dell'anno, un po' emotivamente, forse è arrivato il Natale, si conclude una fase sempre difficile rispetto al prendere delle scelte, quindi le persone sono meno propense a impegnarsi perché all'inizio dell'anno vogliono avere più visione su quello che può succedere. Però quello che è successo negli ultimi anni è che la velocità dei cambiamenti e la quantità di elementi che influenzano sostanzialmente l'economia e quindi emotivamente impattano il cliente rispetto alle sue scelte è cresciuto in modo esponenziale. Se pensiamo semplicemente all'anno scorso, nel quale alla fine dell'anno si parlava di bail-in in modo insistente relativamente a quello che era successo su alcune banche. Incredibile, adesso è quasi scomparsa questa questione. E adesso non se ne parla più, esatto. Però oggi si parla dell'effetto Trump, si parla dell'inflazione, si parla della ripresa dei tassi. E il rischio bancario e finanziario, perché anche quello poi un po' di confusione ne genera. No. Tutte queste informazioni, in più in un periodo dell'anno dove si sta ancora in qualche modo digerendo un po' il panettone dell'anno precedente complessivamente, rende molto difficile per i clienti decidere e prendere una decisione che in senso assoluto è difficile, perché appunto le giacenze in conto corrente dimostrano che c'è una difficoltà complessiva. Questo momento, cioè l'inizio dell'anno e la quantità di informazioni, rendono molto difficile razionalizzare. Questo è il motivo per cui un po' il consulente finanziario si deve vestire da Socrate. Si deve essere da Socrate, sì. Perché? Ma in realtà è interessante il concetto di maieutica, che appunto è un concetto socratico, che è un concetto nel quale sostanzialmente si diceva Socrate non inculcava ai propri discepoli delle idee, ma cercava di aiutarli a partorire le verità, perché il suo concetto di fondo era che la verità non è insegnabile. Ed è un po' quello che bisognerebbe fare anche un po' in finanza. Ognuno alla sua la deve solo un po' tirar fuori da se stesso, in sostanza. Assolutamente. Innanzitutto non c'è un concetto di educazione finanziaria che va bene per tutti. Okay. Perché l'educazione finanziaria, bravissimo, o gli elementi finanziari che ogni cliente deve far suoi sono quelli corrispondenti alla sua situazione. La ringrazio per questa osservazione, perché è veramente una nostra grande battaglia. Si insiste tanto sul fatto che occorre insegnare agli italiani le nozioni finanziarie, ma la questione dell'educazione finanziaria è un concetto estremamente più ampio e significa capire cosa vuol dire per sé la propria famiglia risparmiare, con quali obiettivi. Quindi veramente qua tocca per noi un nervo assolutamente scoperto, dottor Fontanarama. Assolutamente, e in questo senso la consulenza è fondamentale, perché se nel mondo finanziario la prima è quasi la prima e l'ultima domanda che fa sempre un cliente è cosa faccio, perché nel mezzo poi ci sta tutta la spiegazione e quant'altro, la reazione che bisognerebbe avere nei confronti dei clienti è di cosa hai bisogno, perché soltanto attraverso la comprensione delle necessità del cliente e quindi la consapevolezza che deve far proprio il cliente di come agire, si può arrivare a identificare delle soluzioni. Se si cerca invece di identificare in tutto questo contesto finanziario articolato, in queste situazioni di inflazioni, di mercati eccetera, quella che è la soluzione ideale, il rischio sostanzialmente è che il cliente non faccia sua la verità di quello che è l'investimento e conseguentemente faccia strettamente una scelta di breve della quale probabilmente verrà si ne pentirà se la farà da sola o verrà a chiedere conto molto brevemente, certo, rispetto a quello che è il suo consulente di riferimento. Ma che ne pensate, insomma, del modo in cui vi proponiamo questo dibattito sull'educazione finanziaria? Se volete condividere con noi le vostre idee, siamo qua disponibili all'800 24 00 24. A questo proposito, lo ricorderete e vi assicuro che ci torneremo in maniera molto prepotente sull'argomento. Proprio settimana scorsa è stato presentato a Roma il primo censimento nazionale delle iniziative di educazione finanziaria che si fanno sul territorio. ce ne sono oltre 200, portate avanti da moltissimi promotori di varie estrazioni, le associazioni dei consumatori, le banche, le assicurazioni, ma insomma l'elenco è lunghissimo, a dimostrazione che sul territorio è necessario fare molto, ma anche a dimostrazione di come sia un problema difficilmente risolvibile se si guarda l'approccio che hanno gli italiani al risparmio. Risparmiano nella logica in cui Fontana Rava indicava poco fa, con la logica del lungo termine, facendo però scelte di breve. Sì, questa è una caratteristica molto italiana, nel senso negli ultimi 50 anni, almeno negli ultimi 50 anni, gli italiani hanno fatto pianificazione finanziaria, l'hanno fatto sfruttando quella che era una situazione che gli consentiva di fare una pianificazione finanziaria attraverso tante piccole scelte di breve. Quindi prendo il titolo di Stato a 2 anni, prendo l'obbligazione a 3 anni, compongo quello che è un portafoglio. Perché poi dico tanto lo rinnovo, quindi è una scelta di lungo termine. Grazie ai rendimenti che sostanzialmente... significativi che il mercato italiano fino a poco tempo fa riusciva a garantire sostanzialmente, io di fatto potevo raggiungere anche i miei obiettivi in modo sostanziale. Oggi lo scenario è completamente cambiato. Se consideriamo che, guardando quelli che sono i titoli di Stato ad oggi, il valore medio nel 2016 è stato dello 0,55, a un anno il rendimento è dello meno 0,27, a 3 anni dello 0,16, a 5 anni arrivo alla 0,7, neanche a 5 anni arrivo ad avere un rendimento dell'1. Dall'altro lato ci sono le tematiche di inflazione che, ancorché in Italia non abbiano ancora preso in modo significativo, vedono una prospettiva del mercato europeo complessivo verso il 2%. In Germania si è già all'1,7, in Europa all'1,1. Quindi questo semplicemente per dire che, avendo di fronte un'inflazione di questo genere, qualsiasi tipo di investimento di lungo termine che non è in grado di ripagare completamente questo valore non è un investimento, è una non scelta. E invece è un tema che è proprio invisibile, perché d'altronde l'inflazione noi non la vediamo, ce ne accorgiamo solamente del suo intervento quando ha eroso appunto il valore del nostro risparmio. Io qua chiacchiera Nicoletta. E sono alle 11:31 e abbondanti. La borsa perché molti la chiamano, tra poco. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Allora, scomodiamo i Queen per riaprire Cuore e Denari di Investire Informati, perché questa è la colonna sonora di un film che non avevo mai sentito, però ovviamente figuriamoci se i nostri autori non trovano anche quanto ci sia di meglio la musica appunto proporre per arricchire i nostri programmi, la colonna sonora di Highlander, perché adesso di questo tema parleremo associandolo alla finanza. Prima però di introdurre appunto tutto ciò, volevo ritornare per un attimo con Edoardo Fontana Rava, il nostro ospite di oggi di Investire Informati, direttore sviluppo e gestione prodotti di Banca Mediolanum, perché prima abbiamo affrontato ancora una volta Il tema dell'approccio dell'italiano appunto all'investimento e al risparmio. L'italiano dice di condividere scelte precise con il proprio consulente, di fare delle scelte secondo la logica del lungo termine, degli obiettivi di vita. E in realtà poi si scopre che questo lungo termine lo vuole raggiungere facendo scelte di breve e brevissimo. Allora, per essere molto concreti, Fontana Rava, facciamo un paio di domande ai nostri ascoltatori per capire se possono comprendere meglio appunto questo nostro concetto. Ma una prima domanda per capire sostanzialmente cosa vuol dire cultura finanziaria, che poi abbiamo detto è molto personale, sta proprio nella ricerca che è stata presentata, dove si diceva sostanzialmente che soltanto un cliente, un cittadino su 3 conosce almeno 3 delle definizioni: inflazione, capitalizzazione composta, tasso di interesse, diversificazione del rischio. Secondo me qua dentro ce n'è una che è la più importante di tutti, il concetto di diversificazione del rischio. Che cos'è la diversificazione del rischio? E questa è una prima domanda. Una seconda, per arrivare a un elemento un pochino più concreto che magari può essere compreso direttamente, è quella di dire, benissimo, pigliamo un esempio di un cliente che ha sottoscritto un titolo di Stato che oggi ha un rendimento del 2,5% annuo e ha un valore di mercato di 120%. BTP decennale, mi pare. E quindi una scadenza tra 5 anni e un rendimento di valore di mercato del 120%. Cosa faccio? Lo tengo o lo vendo? Cosa fate? Tenete o vendete? Chiamate. Esatto, sicuramente all'800 24 00 24, però qualche messaggio stamattina va letto, perché Viero è diventato il nostro idolo di questa mattina, sempre sul percepito degli italiani sull'educazione finanziaria, su quanto abbiano voglia di prendere confidenza con le tematiche finanziarie, i concetti finanziari. Io capisco che la finanza sia qualche volta un po' incomprensibile, purtroppo però è nella vita di tutti i giorni anche fare scelte finanziarie. Ne facciamo una al minuto. Lunedì mattina al bar Gazzetta dello Sport devastata, inserto economia del Corriere della Sera in tonso. Il Sole 24 Ore neanche entra in questo bar, quindi figuriamoci. Un altro ascoltatore, Claudio, questo poi magari lo commentiamo, Fontanarava, dice: nel 96 un consulente finanziario mi sconsigliò un BTP di 30 anni al 9% che volevo acquistare. Da quel momento i consulenti finanziari per me non hanno più credibilità. Ora bisogna anche vedere cosa volesse fare Claudio, magari tutto quello che aveva lo voleva investire tutto in quel BTP, quindi magari il consulente era scoraggiato anche per quello. Rendimenti molto alti, rischi molto alti, quindi ricordiamoci anche questo assunto che è sempre vero e continua ad esserlo, no? Assolutamente. Beh, l'economia e la finanza non è una scienza esatta, questo si dice tantissime volte. Allora, un rendimento del 9% nel 96 alla luce di quello che è successo oggi sicuramente era un ottimo prodotto, però la risposta la darei in un altro modo. Se io avessi investito tutti i miei soldi a marzo del 2009, quale sarebbe il risultato che avrei oggi? Avrei sicuramente dei rendimenti enormi in termini... Il problema è sapere se in quel momento quel 9% rappresentava esattamente il miglior prodotto, lo possiamo solo sapere oggi. Nella finanza, nell'investimento, c'è solo una regola che si può seguire per avere la certezza e la protezione del capitale più di qualsiasi prodotto tecnico, ma è la diversificazione del rischio, appunto, la diversificazione degli investimenti e la il posizionamento degli investimenti sul corretto orizzonte temporale. Col senno di poi ci sono un sacco di opportunità che si sarebbero potute cogliere, però il problema è se gli avesse consigliato di comprare invece un titolo al 2% nel 96, se avrebbe avuto la stessa reazione che ha in questo momento. Ecco il senno di poi, la parola magica, vale anche per la salute, Nicoletta, no? Magari uno scopre di avere il colesterolo alto, se avessi mangiato un po' meno formaggio, se avessi fatto un po' più movimento. I danni del colesterolo e della pressione elevata sono noti, quindi ci sono delle ricerche che lo dimostrano, certo, quindi non sono poi delle sorprese. In questo caso i mercati finanziari sono delle scienze esatte, sia la medicina che la finanza, però devo dire che c'è una letteratura scientifica a supporto dei danni che alcuni fattori di rischio possono fare sulla nostra salute, di cui abbiamo parlato, e quelli sono misurati e certificati. Allora, Highlander, perché abbiamo scomodato prima quella colonna sonora? E ce lo racconta adesso il nostro inviato nel mondo delle notizie finanziarie più curiose, Enrico Marro, redazione online del Sole 24 Ore. Per la prima volta da quando è iniziato il 2017, torna a trovarci. Enrico, buongiorno e benvenuto, buon anno intanto. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta. Allora, sempre per le sue curiosità, esatto, Enrico, introduco un attimo. Tu hai trovato, ovviamente nelle tue ricerche, veramente un giorno dovresti anche raccontarci quali sono le tue fonti che ti permettono di cacciare delle notizie così interessanti. Hai scoperto delle storie di fondi di investimento assolutamente incredibili. Ce ne sono ancora alcuni, in particolar modo sul mercato americano, che sono nati più di 100 anni fa e che ancora sono in ottima salute. Questo è il motivo per cui tu li hai definiti Highlander, degli immortali. Esatto, vista dall'Italia, questa Italia dove i primi fondi comuni sono apparsi sostanzialmente a metà anni degli fa, anni 80, esatto. Hanno festeggiato 1984, un paio d'anni fa, sì. Esatto. E vedere queste storie di fondi comuni, mutual funds americani nati nel 1924 e tuttora quotati con bei patrimoni è incredibile. Per esempio c'è il Massachusetts Investor Trust, che è il più antico tra quelli diciamo ancora esistenti, è stato fondato nel luglio del 24, ha un patrimonio attualmente di 6 miliardi di dollari, ha passato indenne la crisi del 29, la seconda guerra mondiale, ogni genere di recessioni, bolle e problemi vari, e ancora gode appunto di ottima salute. E alcuni di questi minori hanno una storia particolarmente intrigante, sono fondi chiusi, mutual funds, perché nacquero sempre a cavallo degli anni 20, nella seconda metà degli anni 20, proprio un filo prima della famosa crisi dell'ottobre 1929, per finanziare qualcosa che oggi è assolutamente anacronistico. Cioè, c'era per esempio l'Adam Diversified Equity, è diventato un fondo chiuso nell'ottobre 29, era sostanzialmente il braccio finanziario di una società, la Adam Express, che è nata nel 1854 come società postale del Massachusetts. Presente i film con i cowboy, le diligenze? Sì, esatto. Sai che stavo proprio pensando infatti a quell'immagine là. E questa immagine qua, poi naturalmente con la allora il grande investimento, seconda metà dell'Ottocento, erano le ferrovie, diventò secondo azionista della Pennsylvania Railroad e poi alla fine decise di finanziarsi attraverso questo fondo, l'Adams Diversified Equity, che tuttora ha costi di gestione bassi, stiamo parlando degli Stati Uniti, lo 0,61%, quindi la metà della media di mercato, che negli Stati Uniti si aggira sull'1,2%, e distribuisce regolarmente dividendi dal 1935. Ecco, chissà che non ci sia qualche nonno che ha lasciato in eredità questo fondo ai propri nipoti e ancora ne può beneficiare. Si eredita un fondo di investimento, peraltro, non me lo sono mai chiesto. Adesso qua ci abbiamo tutti dei punti interrogativi in faccia, come probabilmente in una successione può anche entrare in termini di risparmio questo, ma adesso mi documento meglio. Enrico, dobbiamo chiedere ad un notaio. Abbiamo terminato? Sì, grazie. Volevi aggiungere qualcosa? No, che negli Stati Uniti appunto una grande parte di quote di questi antichi fondi si tramandano proprio perché... Tra l'altro, un altro di questi fondi, per esempio il Central Securities, ha generato un rendimento dal 73 a oggi migliore di quello dell'S&P 500. Quindi sono anche dei discreti investimenti e si vengono tramandati. E però bisogna avere la possibilità di poter stare investiti per tutto questo lungo periodo. Non è che poi le persone non abbiano invece delle esigenze nel corso della loro vita che portino a dover anche liquidare queste posizioni. Detto questo, ancora una volta dimostrazione della validità del lungo, lunghissimo termine, e però insomma con i dovuti distinguo. Enrico, grazie, ci sentiamo presumibilmente la prossima settimana. Trova ancora qualche notizia curiosa per noi. A presto. Sarà fatto, grazie. Il traffico a tra poco. Cuore e denari. Eh no, il quizzone lo voglio fare perché qua i libri ce ne sono arrivati un sacco a Natale, per cui ne abbiamo di disponibilità per voi. Allora, record del mercato americano ieri sera, gli ennesimi degli ennesimi, ma ieri proprio il Dow Jones americano ha fatto la sua prestazione più incredibile, quella che aspettavamo da inizio anno, ha toccato e superato e chiuso sopra i 20.000 punti. Ma quanti titoli contiene il Dow Jones? Lo sai che qualcuno ancora si ostina a dire il Dow Jones? Te l'avevo detto perché lo sento. No, ma guarda, infatti voglio un po' stuzzicare gli ascoltatori perché mi indispettisce Dow Jones, perché sono anche i nomi dei fondatori appunto di questo paniere. Detto questo, quanti titoli ha questo paniere americano? 800-24-00-24 per rispondere. Allora, dottor Fontanarava, intanto in molti stanno rispondendo anche al quizzatone che ha fatto lei prima. Uh-huh. E devo dire che sono anche sulla più o meno buona strada. Detto ciò, questa storia però del mercato americano ci porta anche ad altre riflessioni, perché tutta questa euforia io direi che la possiamo lasciare intanto un po' chi la provoca, gli investitori professionali. Ma secondo lei, rivolgendoci ad un piccolo risparmiatore che rischia magari di cadere dalla trappola di un'altra bolla, come succede qualche volta col mercato immobiliare, con i titoli tecnologici come è successo all'inizio del 2000, insomma, facciamo un po' diamo qualche raccomandazione, istruzioni per l'uso di questa fase di mercato ai nostri amici. Ma per rispondere a questa domanda riprenderei spunto dalla descrizione dei fondi che storici hanno avuto dei rendimenti eccezionali. Per sottolineare una cosa, il fatto che dei fondi abbiano avuto storicamente dei rendimenti importanti non vuol dire che i clienti abbiano guadagnato. Ci sono moltissimi esempi, disturbo il Magellan Fund di Peter Lynch, che è stato il fondo di riferimento per tantissimi anni verso la fine del 2000, con rendimenti eccezionali superiori al Dow Jones, dove una rilevazione ha dimostrato che più del 50% dei clienti hanno perso soldi. Questo perché, certo, questi fondi hanno avuto dal 29 ad oggi e sono partiti in un momento anche un po' favorevole, vogliamo vederlo rispetto, sì, al potenziale, un rendimento eccezionale. Ma è il comportamento dell'investitore che determina per più del 50% il risultato finale di quello che sono gli investimenti. Proprio per questo, anche in questo momento, il record di 20.000 è un nuovo record rispetto a tantissimi che il mercato americano nella storia ha guadagnato. Certo. È molto più importante considerare, essere consapevoli, che se noi guardiamo l'andamento della borsa americana dal 1871 ad oggi, sappiamo, su un orizzonte medio di 20 anni, sappiamo che ha avuto un rendimento del medio del 5%, dove nell'80% dei casi è stata tra l'1,7 e l'8,9, quindi ben al di sopra dei livelli di inflazione che ci aspettiamo. Per dire che è il comportamento dell'investitore che determina il risultato fondamentale, esatto, e non il momento puntuale che va verificato rispetto a quello che può succedere e che succede ogni mese e che cambia la situazione. Allora, sempre per rimanere sull'attualità e la cronaca recente, lei prima l'ha citato, questo fermento che si sta rimanifestando sui prezzi, indice anche di una ripresa dell'economia, perché ricordiamoci che è un po' come il colesterolo cattivo e quello buono, c'è anche quello buono, c'è anche l'inflazione, appunto, che ci denota una ripresa delle condizioni economiche generali, quindi non è sempre un tema negativo se guardato dal punto di vista, appunto, del risparmiatore. L'1,7% in Germania, l'1,1% in Europa, noi siamo in deflazione, però la condizione generica è che si rivada verso un risveglio dei prezzi. Relazionando questo tema a quello dell'investimento sul mercato obbligazionario, che cosa ci dobbiamo aspettare, come dobbiamo affrontare questo tema come piccolo risparmiatore? Allora, oggi più che mai è fondamentale considerare questo come uno degli elementi da considerare rispetto alla scelta dell'investimento. Sicuramente, l'abbiamo detto prima, c'è una prospettiva di inflazione importante a livello europeo. In Italia siamo ancora in una logica di meno 0,1, ancorché a dicembre ci sia già un più 0,5, quindi poi bisogna guardare anche quelli che sono i trend di breve. La risposta è che attraverso la logica della diversificazione e considerazione non soltanto del mercato obbligazionario. Se io oggi guardo al mercato strettamente obbligazionario, non posso avere delle prospettive di rendimento interessante e conseguentemente vado a limitare la mia possibilità di rendimento. Peraltro non sempre limitando anche il rischio, perché sappiamo che siamo in un mercato nel quale l'assioma storico di azionario rischioso, obbligazionario tranquillo, no, è tramontato completamente. Oggi non è più così solido e così fermo. Sicuramente rimane assolutamente valido come principio in logica di diversificazione e di equilibrio rispetto ai profili dei clienti, ma il concetto è: non posso affrontare da solo, attraverso un prodotto o una soluzione, questa situazione di mercato. È un po' come la persona che crede che investire nel mattone sia la soluzione a tutti i mali e sia in assoluto la cassaforte del proprio risparmio. Abbiamo appreso negli ultimi anni che anche quello non ha più quelle caratteristiche. Allora, direi di rifare la sua domanda prima: l'investimento nel BTP a 5 anni, qual era? Dicevamo, facciamo un esempio, un titolo di Stato che rende il 2,5% e vale 120%, ha una scadenza tra 5 anni, cosa faccio? Tengo o vendo? Ma sa chi si candida a rispondere? Una signora, Monica, dalla provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Allora, vediamo un po' se ha studiato, Monica. Un calcolo. Sì. Cioè calcolare le cedole che si può avere fino alla scadenza. Cioè, come sono cedole fisse, si fa presto. Corretto. E vedere, fare il confronto se il totale di queste cedole corrisponde o meno al 20% del valore nominale. Io guardi, poi a me mi vengono a dire che in Italia c'è bisogno di educazione finanziaria. Guarda, abbiamo bisogno di altri miglioramenti da fare da altri fronti, migliorare un po' il rapporto di fiducia tra consulenti, intermediari, risparmiatori e quant'altro, magari modificare sicuramente anche il linguaggio da parte nostra con cui si parla di questi temi, ma qua mi sembra che non c'è proprio niente da insegnare. La risposta è perfetta. Se posso permettere. Libro è partito, Monica. A Treviso sta arrivando già. È già lì con le gambette. Nell'essere perfetta c'è un elemento però importantissimo da considerare, e volutamente la domanda era fatta in questa maniera, è che prima ancora del rendimento assoluto, che come diceva giustamente la signora, farebbe prevalere la scelta di vendere, dipende dal fatto se il cliente vive o ha bisogno di quel 2,5% regolare rispetto invece a un valore assoluto che potrebbe portare a casa oggi. Infatti sicuramente disinvestendo sarebbe difficile sul mercato di oggi ritrovare un rendimento costante e fisso per i prossimi anni di questa dimensione. Marianna da Padova, quanti titoli ci sono nel Dow Jones? 500. Ma quello è lo Standard & Poor's, Marianna, però lei solo per aver chiamato il libro lo riceve lo sicuro. Stesso. Pinuccia dalla provincia di Como. Sì, buongiorno. Tutte chiamo donne. Da, brava! E vai! Scusi, Pinuccia dove chiama? Chiamo da Cadorago, in provincia sì? di Como. Ah, sì, ok. Quanti titoli? Per i titoli della Dow Jones sono 30. Pinuccia, però miglioriamo la pronuncia perché è Dow, mi raccomando, il Dow Jones sta andando invece sempre su altro che down. Grazie mille, quindi doppio libro per Pinuccia che ha indovinato e naturalmente ne regaleremo uno anche ad Edoardo Fontanarava per aver superato brillantemente l'interrogazione di questa mattina. Grazie. Buona giornata, torniamo domani. Buona giornata a tutti.